thought tonight to really see what it might mean to have a lifestyle based on the Buddha's teachings. Ho pensato questa sera di esaminare cosa significa avere uno stile di vita basato sugli insegnamenti del Buddha. And to see what it might mean to take the refuges and precepts. E quindi di vedere cosa potrebbe significare prendere i rifugi e i precetti. As a sort of not as just a ceremony to open a meditation session, but as a serious commitment. Quindi non come una cerimonia così per aprire una sessione di meditazione, ma come un serio impegno. I think these days people tend to gather a sort of spiritual portfolio. Sembra che in questi giorni le persone tendano a mettere insieme, a raccogliere un portfolio spirituale. Yeah, a bit of qigong, a bit of this, a bit of that, mix it all together into a into a sort of personal lifestyle. Prendono un po' di qigong, un po' di questo, un po' di quest'altro e lo mettono tutto insieme per formare una sorta di stile di vita. And the problem with that is that one is on the outside of a roundabout, you know, these things in playgrounds, yeah, roundabout, and the person jumps from horse to camel to giraffe to e il problema con questo sistema, con questo metodo è come se una persona si trovasse on a merry-go-round, su una giostra, e per cui saltella, non so, dal cavallo all'elefante, alla tigre, non è mai su un animale solo. And it doesn't have a sort of point of reference. È come se non avesse un punto di riferimento. The whole point about taking up a specific tradition is that it grounds you in a particular place. Quindi il vantaggio di prendere come riferimento una particolare tradizione è che ti radica in un certo luogo. It becomes a reference point to which all these different animals make sense. E quindi diventa un punto di riferimento rispetto al quale tutti questi altri diversi animali hanno un loro senso. So the Buddha lays out what he calls the Eightfold Path. Quindi il Buddha espone quello che lui chiama il nobile ottuplice sentiero. And it's in understanding this noble Eightfold Path that we can see it contains a sort of lifestyle, a way of living. Ed è proprio nel comprendere questo nobile ottuplice sentiero che vediamo che contiene al suo interno un certo modo di vivere, uno stile di vita. So it always begins with this right understanding. Quindi comincia sempre con questa retta comprensione. And the sort of basic position is that we create our own worlds. Quindi la posizione di base è che noi creiamo i nostri mondi. That these worlds are of course in contact with each other. Che questi mondi sono in un qualche modo in contatto l'uno con l'altro. And that if we don't get it right, there's a sort of clash of worlds. E che se non riusciamo a comprendere nel modo giusto è come se ci fosse uno scontro tra questi mondi. And this increases our unhappiness. E questo aumenta la nostra infelicità. It's bad enough to be unhappy in a happy crowd, but to be unhappy in an unhappy crowd is really bad news. Quindi già di per sé è una cosa brutta essere infelici in mezzo a una folla di persone felici. Ma essere infelici in mezzo a una folla di persone infelici, beh, questo è una cosa ancora peggiore. If we can be happy within an unhappy crowd, then maybe that's not so bad. E invece se riusciamo a essere felici in mezzo a persone non felici, beh, questo non è tanto male. And what our Vipassana is doing is really undercutting our own personal unhappiness. Quello che fa la Vipassana è proprio tagliare alla base la nostra personale infelicità. And it's making us looking at the question of how do I create my own suffering and unsatisfactoriness. Ci aiuta a guardare direttamente al modo in cui noi stiamo creando la nostra infelicità o la nostra insoddisfazione. And this is where we investigate these three characteristics. Ed è qui che noi investighiamo queste tre caratteristiche. Where we saw continuity, we see discontinuity. Dove una volta vedevamo continuità, adesso vediamo discontinuità. Where we thought we saw happiness, we actually see a source of suffering. Dove pensavamo di vedere la felicità, in effetti vediamo una fonte di sofferenza. And where we thought there was something substantial, we find there's not much there. E laddove pensavamo ci fosse qualcosa di sostanziale, ci accorgiamo che invece non c'era nulla. Now, if we take one insight of that process, which is how we are dependent upon each other. E se prendiamo un insight all'interno di questo processo, ed è nello specifico l'accorgersi di come noi dipendiamo gli uni dagli altri. Because this is our paradox. We create our own worlds, but the world we create is dependent on the world. Perché questo è il paradosso. Noi creiamo i nostri mondi, ma il mondo che noi creiamo in qualche modo dipende da il mondo esterno, dal mondo esterno. Which includes everybody else. E questo mondo esterno comprende i mondi di tutti gli altri. So we have this flow of information, this flow of relationship. Abbiamo questo flusso di informazioni, questo flusso di relazioni. So even though within ourselves we can begin to see where we're making mistakes. Quindi anche dentro di noi possiamo vedere dov'è che stiamo facendo degli errori. This makes little sense unless we can take it into the world. Però questo non ha molto senso a meno che noi non riusciamo a portarlo nel mondo. And this passage from an understanding into an action must move through a middle point. E questo passaggio da una comprensione ad un'azione deve passare attraverso un punto mediano. And that middle point is right attitude. E questo punto mediano è il giusto atteggiamento. So now the attitude that we are developing is to do with relationship. L'atteggiamento che noi stiamo sviluppando ha a che vedere con la relazione. Which includes relationship towards ourselves. E questo include anche la relazione con noi stessi. So, the Buddha points out, where there was selfishness, now there is generosity. E quindi il Buddha sottolinea, laddove c'era l'egoismo, adesso c'è la generosità. Where there was cruelty, now there's compassion. Dove c'era la crudeltà, ora c'è la compassione. And where there was, what's the other one? hatred. I've missed it. Yeah. Where there was hatred, now there's love. E laddove c'era l'odio, adesso c'è l'amore. Now, if you take any of those negative qualities, you will see the process is to transform them to the opposite. E allora se prendiamo qualunque di queste qualità negative, noi comprendiamo che il processo è quello di trasformarli nel loro opposto. So take for instance everybody suffers from, say, boredom. Allora prendiamo la noia di cui quasi tutti soffrono. But boredom, remember, is a consequence of seeking excitement. Ma ricordatevi che la noia è la conseguenza del cercare l'eccitazione. And when something isn't exciting us enough, then we get bored. Quando una cosa non ci eccita abbastanza, non ci emoziona abbastanza, allora ci annoiamo. But if we undermine that seeking of excitement and begin to develop a sense of a taste for the ordinary, for the calm, for the peaceful. Ma se intacchiamo questa ricerca dell'eccitazione e cominciamo a gustare, a sviluppare un gusto per l'ordinario, per questa calma, per la pace. Mm. Then we find that this boredom disappears, but it turns into its opposite. Allora scopriamo che questa noia sparisce, ma si trasforma anche nel suo opposto. Ah, which is interest. Che è l'interesse. Ah, l'interesse. So, whenever you see, whenever we catch ourselves in a negative state, ogni volta che ci accorgiamo di essere in uno stato negativo, the Buddha is saying that there is a way of not just putting an end to that negative state, but actually transforming it to its opposite. Allora il Buddha ci dice che c'è un modo non solo per porre un termine a quello stato negativo, ma anche di trasformarlo. Mm. So, just taking one incident in the Buddha's life, he made this great effort to find the answer to the problem of human suffering. Prendiamo un episodio nella vita del Buddha, quindi lui ha fatto questo grosso sforzo per capire il motivo della sofferenza umana. Now, when he found it, you know, he just didn't sit there, as I say, with a sign, enlightened, do not disturb. Quando lui l'ha effettivamente compreso, non è che si è seduto lì con un cartello che diceva, illuminato, si prega di non disturbare. No, his first thought was, who could I share this with? Il suo primo pensiero è stato, con chi posso condividerlo? Now, according to the myth that surrounds this particular incident, the great god, one of the great gods came down and said, and encouraged him to teach because there were some who had only a little dust in their eyes. Quindi secondo la leggenda che circonda questo episodio, allora uno degli dei, uno dei maggiori delle maggiori divinità, scese e chiese al Buddha di insegnare perché c'erano ancora delle persone nel mondo che avevano poca polvere negli occhi. Mm. And some people translate this as he didn't want to teach. Alcuni questo lo interpretano come se lui non volesse insegnare. But far from it, what it was an immediate doubt when he saw the profundity of what he had discovered, that general doubt as to whether anybody else would be capable of it. Ma in realtà è il contrario, cioè lui si è reso conto, si è fatto prendere dal dubbio rispetto alla profondità di questo insegnamento. Mm. Quindi il dubbio che ci fossero delle persone in grado di comprendere un insegnamento così profondo, una comprensione così profonda. Yes, and the myth tells us that he overcame that doubt and began to think about those who might be ready for this teaching. E allora si dice che lui ha superato questo dubbio e cominciò a pensare a chi potesse comprendere questo insegnamento. Mm. And he made his way to find his five companions. And on his way, he encountered this particular ascetic. E quindi si camminò per cercare i suoi cinque ex compagni e per la strada incontrò questo asceta. And here's a lovely little cameo, a lovely little scene where we see that the Buddha also has to learn how to teach. E quindi qui vediamo, abbiamo una piccola scena, diciamo, un episodio dove il Buddha deve effettivamente imparare come insegnare. Mm. Because this ascetic, whose name I forget, excuse me, when he sees the Buddha, he says, "My, you know, what an aura! What you know, your look is so wonderful. You know, who is your teacher? Who brought you to this state?" Perché questa scelta, quando lo vede, dice, ma tu hai questa aurea, cioè così meravigliosa, qual è il tuo insegnante, il tuo maestro? Chi è che ha fatto sì che tu potessi raggiungere questo stato? And he said, I have no teacher. E lui disse, io non ho nessun insegnante. I am the enlightened one. I am the fully self-enlightened one. Io sono l'illuminato. Io sono colui che è pienamente auto-illuminato. And the passing ascetic said, Oh, I see, yeah, okay. E la chiesa fa, ah sì, certo, certo, come no. And interestingly enough, as far as I know, he does not recur in the scriptures. Per quanto ne so, poi non lo si ritrova più nelle scritture. So he thought, well, this isn't quite the way to get across the message. E allora Buddha deve aver pensato, beh, questo forse allora non è il modo giusto per trasmettere il messaggio. And in fact, when he gets to his disciples, he's very careful, I think. In realtà poi quando arriva ai suoi discepoli è molto attento. And he begins to explain his understanding, and he interrupts his teaching by asking them, "Have you ever heard me speak like this before?" E quindi comincia a insegnare e ogni tanto si ferma e chiede ai suoi compagni: "Voi mi avete mai sentito parlare così prima di adesso?" Mm. So here we have this transition from right understanding into a right attitude. Quindi qui abbiamo questa transizione da una giusta comprensione a un giusto atteggiamento. Mm. And this immediately flows into right speech, right action, right livelihood. E questo immediatamente fluisce dentro un giusto pensiero, una giusta parola e una giusta azione. In other words, it can't remain at that state of potential because in time we are also in action. Quindi non può restare in quella fase potenziale, perché con il tempo diventa anche un mettere in azione, cioè diventa una cosa in azione. Mm. And in that process of time there is thought, there is speech and there is action. E in quel processo di tempo, che avviene all'interno di un periodo di tempo, c'è il pensiero, c'è la parola, c'è l'azione. Mm. And so he talks about right speech and gives indications as to what right speech might be. E quindi parla della retta parola e dà delle indicazioni rispetto a che cosa si intende per retta parola. Ah. So he has three qualities to right speech. Quindi lui indica tre qualità della retta parola. It is kind, honest and most important at a suitable time. Quindi è gentile, è sincera e, la cosa più importante, è pronunciata in un momento adatto, al momento giusto. Kind, you see, kind here means that we don't get into that aggressive mode. Quindi qui la parola gentile significa che noi non entriamo in quella modalità aggressiva. Mm. I forgot the word. Not aggressive. What do they normally say when you want to actually state what you assertive? That's it. Assertive. Mm. But you can be assertive and yet be kind in the way that you assert what you want other people to understand. Quindi uno può essere assertivo e gentile allo stesso tempo nel cercare di far comprendere a un'altra persona quello che si intende dire. Mm. And then there's the honesty, which you know we would normally take for granted. Quindi c'è l'onestà o la sincerità, in italiano quest'altro significato, che vuol dire I wish we take for granted. Sì, questa è una cosa che di solito prendiamo per scontato. We try to be truthful in ordinary daily life. Noi cerchiamo di dire la verità nella nostra vita quotidiana. But here we have to be careful not to move into exaggeration. Dobbiamo stare attenti qui, però a non esagerare. Both in the negative and the positive, Sia in senso negativo che in senso positivo. Not to overstress something and not to underplay something, but to try and actually see to express the truth. Quindi non enfatizzare qualcosa, ma neanche ridimensionarlo, ma semplicemente dire ciò che è vero. Mm. Now, at this point, we also have this teaching concerning our five precepts. E qui abbiamo quindi questo insegnamento che riguarda i cinque precetti. Mm. And these five precepts are just basically telling us that to behave like this is going to cause us some suffering. These five precepts are telling us if we behave in this manner, if we behave in an unwholesome manner, uh-huh, it's going to cause us suffering. Sì. Yes, allora, cosa ci dicono questi cinque precetti? Che se noi ci comportiamo in un modo non salutare, beh, questo ci causerà sofferenza. Mm. So the Buddha is clear about what wrong speech is. Quindi il Buddha è molto chiaro nel spiegare che cosa si intende per parola errata. So obviously there is the telling of whoppers. Whoppers is a bad lie. Big lies. Quindi per esempio c'è la, dire delle grandi bugie, delle grandi, grandi bugie, sì. Raccontare balle. There's wrong there's slander. Poi c'è, non so, il parlare... talk badly about people, sì, slander. Sì, insultare sarebbe. Mm. Insultare? No, no. Parlare male dietro. Parlare dietro qualcuno. Sì, sì, sì, male. Sparlare. Sparlare, ecco, sparlare. And then there's a coarse speech. Un linguaggio duro, maleducato, rude. Rude, sì. And finally, a very difficult one, gossip. Uno molto difficile che è pettegolezzo. But it's not only gossip, it's useless talk. Non è solo pettegolezzo, è quel parlare inutile. Talking for talking's sake. Parlare solo per il gusto di parlare. So you might say, well, can't I talk about the weather to somebody? Allora uno può pensare, ma allora non è possibile parlare del tempo, per esempio, con qualcuno? Well, often talking about the weather is a sort of social nicety. Ma a volte il fatto di parlare del tempo atmosferico rappresenta una gentilezza sociale. And in this case, you know, that's fine. In questo caso va bene. But if one is forever talking about the weather, then one has to consider. Ma se uno parla continuamente del tempo, allora uno può fare delle considerazioni. So yes, and one of the difficult things for us in a society which communicates all the time is how to be with others in silence. Un'altra cosa importante per noi in una società che comunica continuamente è il come restare in silenzio con gli altri. Mm. And it's one of the paradoxes that the more we can communicate, the less we can relate. Ed è uno dei paradossi che più noi riusciamo a comunicare e meno riusciamo a relazionarci. Yeah, we seem to hide ourselves behind a continual flow of words and images. È come se ci nascondessimo dietro un continuo flusso di parole e di immagini. Mm. And I always think it's a sign of maturity and friendship when two people can sit together and don't feel they have to speak. E ho sempre pensato che fosse un segno di maturità e di amicizia quando due persone possono sedersi vicino, uno vicino all'altro e non parlare. Mm. So here we have the Buddha saying, you know, these things we should avoid. The actual word translated properly should be training rules. E quindi qui il Buddha dice, queste sono le cose che dobbiamo evitare. E in realtà la traduzione vera dei precetti sarebbe regole di addestramento, di tirocinio. Sika, pada. Pada means footstep, sika means training. Quindi sika, pada. Pada vuol dire passi e sika vuol dire addestramento. Sì. So he's not putting it to us as commandments, yeah? Quindi non è che ce li dà come comandamenti. Mm. In other words, so long as we have a self, so long as we have this misunderstanding, we will break these, we will do things which aren't correct. Quindi finché abbiamo un sé e finché abbiamo questa non comprensione, noi faremo delle cose che non sono corrette. So it's not as though we have to go into great guilt about it, we just see, oh yes, this is the way it is. Quindi non è che dobbiamo farci venire dei sensi di colpa, ma beh, sì, le cose stanno così. Mm. And we are ready to accept the consequences of anything that we do that's unwholesome. E siamo pronti a accettare le conseguenze di qualunque cosa che facciamo che non sia salutare. And once the consequence has been received and patiently borne, that's the end of the story. E una volta che the consequence is received. Una volta che la conseguenza di quello che facciamo viene ricevuta and born e sostenuta pazientemente, allora la storia finisce lì. Ah, there's no need to carry on feeling guilty. Non c'è bisogno di continuare a sentirsi in colpa. Ah, you see? So and of course we can do things to prevent the full consequence of an unwholesome action. Ovviamente noi possiamo fare qualcosa per prevenire la piena conseguenza di una azione non salutare. Hmm. So when it comes to wrong speech, sometimes you say something which is you can see as upset somebody. Per esempio, quando parliamo di parola errata, uno si accorge di aver detto qualcosa che può aver ferito un altro. Ah, so the quickest way to stop the consequence of that is to say sorry. Quindi la cosa più veloce per interrompere per evitare la conseguenza di ciò è dire scusarsi, non mi dispiace. Yeah. That's it, then it stops. If not, then you can presume that stuff will come towards you. Se non lo fai, puoi supporre che ci saranno delle cose che vengono nella tua direzione, che ti tornano indietro. Mm. And it's often the case that the stuff that we deny about ourselves, which we're not aware of. Quindi capita spesso che le cose che noi neghiamo, di cui non siamo consapevoli, actually are being expressed through our actions and words without us knowing it. Effettivamente sono espressi attraverso le nostre azioni, le nostre parole, senza che noi ce ne accorgiamo. And the world begins to react towards us and we're mystified. E il mondo comincia a reagire in un certo modo nei nostri confronti e noi siamo un po' spaesati. Yeah. And and what we tend to do, of course, is then to project upon the other our own problem. E quello che tendiamo a fare è di proiettare sugli altri il nostro problema. Mm. So one simple thing might be that we are actually very controlling. Quindi una cosa molto semplice può essere che effettivamente noi siamo delle persone che controllano. But I don't see myself as that. Ma io non mi vedo così. No, I see myself as asking people their opinions and their advice. Io mi vedo come una persona che chiede agli altri la loro opinione, il loro consiglio. But I don't see that actually I'm making all the decisions. Ma non vedo il fatto che in realtà io prendo le mie decisioni da solo. I mean, after all, I've asked for your opinions. Dopo tutto, sì, ho chiesto le vostre opinioni, però decido io. And then I find people being very antagonistic towards me and trying to undermine me. E poi scopro che le persone diventano degli antagonisti e cercano di boicottarmi. Mm. So I say to myself, all these people just want to be in control. Allora io dico, queste persone semplicemente vogliono essere in controllo. And if they're doing the same thing, well, there's war. E se anche loro fanno la stessa cosa, allora c'è una guerra. And one of the underlying things, one of the underlying attitudes which is very difficult for us to accept. È uno di questi atteggiamenti sottostanti, diciamo, sotterranei, che per noi è molto difficile da accettare. Mm, and that's envy and jealousy. E l'invidia e la gelosia. Because when we accept our envy and jealousy, we're also accepting that we are inferior to the person towards whom we're jealous and envious of. Perché quando accettiamo l'invidia e la gelosia, accettiamo anche il fatto che noi siamo inferiori alla persona della quale siamo invidiosi e gelosi. And the fact that we don't accept, we don't see this envy and jealousy is because we consider ourselves to be superior. E il fatto che noi non la vediamo e non l'accettiamo, questa invidia e gelosia, è perché noi ci riteniamo superiori. Ah, so the mind, as we know from the great discoveries of Freud, is very tricky. E come sappiamo anche dalle scoperte di Freud, la mente è molto ingannevole. Mm. So speech is the most difficult of all things to be ethical about. La parola, il linguaggio, diciamo, è la cosa più difficile, la cosa è l'ambito nel quale è più difficile avere un atteggiamento etico. I am continuously biting my tongue. Io continuamente mi mordo la lingua. You can never, even though one is trying to be quite aware, these little things slip out, you say things and oh my God. Anche se uno cerca di essere consapevole, però ci sono queste piccole cose che sfuggono, accidenti. So then we come to the area of right action. Allora adesso andiamo nell'area, nell'ambito della retta azione. And here, you know, there are obviously work which is, you know, which is unwholesome, unethical. E qui, you mean jobs? Jobs, ci sono dei lavori che non sono etici. Anything to do with arms and the buying and selling of human beings, all that sort of stuff. We know them as being very, very unwholesome. Qualunque cosa che abbia a che vedere con le armi o con la vendita, insomma, la schiavitù riguardo alle persone, beh, tutte queste sono lavori che non sono etici. But I think that the vast majority of jobs, you know, can be seen as ways in which we can train ourselves spiritually. Ma io credo che nella maggior parte dei lavori questi possono essere considerati delle occasioni perché noi possiamo addestrarci spiritualmente. And the attitude which is going to turn what we do as a living into a spiritual practice is service. Quindi l'atteggiamento che può trasformare il nostro lavoro in una pratica spirituale è il servizio. If we are doing something for the benefit of others, it immediately becomes an act of generosity. Se noi facciamo delle cose a beneficio degli altri, automaticamente questo diventa un atto di generosità. And of course, we can also include ourselves, the generosity towards ourselves too. Possiamo ovviamente anche includere la generosità verso noi stessi. Now, when we are generous with our work, in our work, then of course it often demands that we let go of our own particular desires. Quando noi siamo generosi nel nostro lavoro, questo richiede che lasciamo andare i nostri particolari desideri. And there you get your non-attachment. E lì, quindi, c'è questo aspetto del non-attaccamento. And also to, you know, engender a sense of gratitude towards the people whom we work with, towards the people who created the work, and so on. Anche lo sviluppare questo atteggiamento di gratitudine verso le persone con cui lavoriamo, le persone che hanno creato il nostro lavoro e così via. Often we take just so much for granted. It's as though we think, you know, the society owes us a job. A volte prendiamo molte cose per scontato. Noi pensiamo che la società ci debba un lavoro, cioè abbiamo il diritto di avere un lavoro. Instead of, you know, in certain societies where if you want a job, you go find it. You make your own industry. Al posto di altre società dove se tu vuoi un lavoro, beh, sei tu che te lo devi andare a cercare, sei tu che ti devi creare la tua occupazione. Now, I'm not arguing against the welfare state or anything like that. I'm just talking really about these attitudes that we have, which are presumptuous. Quindi io non sto criticando lo stato sociale, il welfare, sto solo dicendo che a volte abbiamo questi atteggiamenti che sono un po' presuntuosi. Yeah, and you know, I see this within the Buddhist order. Questo lo vedo anche all'interno dell'ordine buddista. Yeah, a lot of arrogance and presumption that, you know, because I'm dressed in this very wonderful imaginative way that people ought to be serving me. Questa idea che questa presunzione, no, del fatto che solo perché sono vestito in questa maniera così fantasiosa, mi sembra che avevi detto, le persone debbano servirmi. No. And there's nothing, I think, more disgusting than spiritual pride. Non c'è nulla di più disgustoso che non questo orgoglio spirituale. So the Buddha's really asking us to look at what we do in a way which is an offering to society. Quindi il Buddha ci chiede di osservare quello che stiamo facendo e di fare in modo che sia una offerta alla società. And he points to livelihood. You see, in the Eightfold Path, you have right action and right livelihood. Logically, there's no need to put right livelihood because it's an action. Quindi nello duplice sentiero vedete che c'è la retta azione e poi quello che in italiano viene tradotto come i retti mezzi di sussistenza. In inglese livelihood è modo di vivere. In realtà non ci sarebbe bisogno di mettere il retto modo di vivere perché è già compreso nell'azione. Mm. And this shows the importance that he gives to your to the job that you do in life. Ma questo sta proprio a indicare l'importanza che dà al lavoro che uno svolge nella propria vita. So most people will spend 6, 7, 8 hours of their best time every day in their job. Quindi la maggior parte delle persone dedicherà 7-8 ore, le ore migliori della propria giornata nel proprio lavoro. So this will have a great conditioning effect on the person. E questo avrà un enorme effetto condizionante, si può dire così, sulla persona. Yes. So il condizionamento. I always for instance if you were a policeman or a policewoman. Per esempio, se voi foste un poliziotto o una poliziotta, then you have to develop the quality of suspicion. Sì, dovreste sviluppare la qualità del sospetto. If you're a teacher, then you have to be careful that you don't only ask the questions that you know the answer of. Se siete un insegnante, dovete stare attenti a non fare solo quelle domande di cui conoscete la risposta. Ah. And you can see if you all now had training as should we say special army forces, it would affect your character, no? Se tutti voi aveste una formazione per essere all'interno dell'esercito, delle forze armate, corpo speciale dell'esercito, beh, questo sicuramente avrebbe un effetto sul vostro carattere. What do you call the Marines? Things like that. Sì, come i Marines. Yeah, sì. Corpo speciale. A different mindset, eh? Hanno una struttura mentale molto diversa. But even they, because I was invited to give talk to soldiers. Ma sono stato invitato a fare un discorso, offrire dei discorsi ai soldati. The Buddhist chaplain for the British Armed Forces is a Sri Lankan man. Quindi il cappellano delle forze armate britanniche viene dallo Sri Lanka, cingalese. Yes, so he asked me to come and give a talk to the armed forces. E quindi mi ha chiesto di andare a fare un discorso alle forze armate. It seems as though they'd invited this other monk. Pare che avessero invitato un altro monaco. And he had given them the impression that you know, like, what are you doing as Buddhists? You know, carrying weapons. E sembra che lui però abbia dato un po' questa idea del cosa fate voi, come potete essere buddisti e portare le armi, usare le armi. But I felt that you know, in a world where you have violence, you're going to have some force to prevent that violence manifesting. Io ritengo che in una società dove ci sia della violenza bisogna avere un corpo, un esercito che possa prevenire che quella violenza si manifesti. Even in the simplest of things we have to make a distinction between violence and force. Anche nelle cose più semplici dobbiamo fare una distinzione tra la violenza e la forza. For instance, if I knock this bell over, per esempio, se faccio cadere questa campana, then I need the force to put it back on there. Ho bisogno poi della forza per rimetterlo al suo posto. But if I'm irritated with myself, then I'll put it back on there. Ma se io sono irritato con me stesso, allora io, lo metterò a posto con una certa violenza. Ah, so there's a distinction to be made between force and violence. E quindi c'è una differenza tra la forza e la violenza. Mm. So a soldier putting his own life on the line as a peacemaker seems to me to be a very compassionate action. Quindi un soldato che mette la sua vita, dedica la sua vita e la mette proprio in prima linea praticamente per la sicurezza degli altri, per la pace degli altri, beh, io ritengo che questa sia un'azione compassionevole. So I could see there was great relief amongst the soldiers. Quindi ho visto che dopo questo discorso ci fu molto sollievo tra i soldati. What are the Nepalese soldiers called? Oh, dear me. Gurkhas. Because there were some Gurkhas there, you see, and they have a very ferocious reputation. E c'erano questi soldati nepalesi, Gurkha, che hanno questa reputazione di essere feroci. I'm happy to say that the British government finally has allowed them to become British citizens, having spent years serving the British Army. Sono contento di dire che l'esercito britannico ha permesso che loro diventassero dei cittadini britannici dopo anni che hanno servito appunto l'esercito britannico. So there's that whole area of livelihood which becomes a spiritual path once we have the right attitude. Quindi c'è tutto questo contesto, questo ambito della giusto modo di vivere, che diventa una pratica spirituale nel momento in cui noi assumiamo l'atteggiamento giusto. Now, so this is a bit of an overview of the Buddhist path. Quindi questo è così un'analisi un po' generale del sentiero buddista. And we haven't really talked about the development of virtue as it's listed in the Ten Perfections. Non abbiamo parlato però dello sviluppo della virtù così com'è elencato nelle Dieci Perfezioni. But I can just very quickly point out to you this point them out to you, but it's not an exhaustive list. Però posso indicarvi brevemente, non è una lista esaustiva. So we have the perfection. The word it's translating is parami. Pari means to the other shore. Quindi si parla di perfezioni, ma la parola pali è parami, che significa sull'altra sponda. And the other shore is the Buddha's way of always talking about nirvana. E l'altra sponda è il termine a cui si riferisce Buddha quando parla del nirvana. He often utilizza riferendosi al nirvana. Yeah, he might talk about it as an island. A volte ne parla come di un'isola. So there's the perfection of giving, you see, generosity. C'è la perfezione della generosità, del dare. And then there's just our ethical life, our morality. C'è la nostra moralità, la vita etica. Then there's renunciation. Poi c'è la rinuncia. Now I have to be careful here. Renunciation is not self-mortification. E qui bisogna fare attenzione, perché la rinuncia non è l'automortificazione. By self-mortification we mean that we think the body is at fault. Per automortificazione questo significa che noi consideriamo che sia il corpo a essere sbagliato, è in errore. Sei in errore. But the body is at fault. So, for instance, if we think that I'm greedy because of my tongue, then I may draw myself to a conclusion of cutting my tongue out. Per esempio, se io penso di essere goloso per colpa della mia lingua, allora io potrei arrivare fino al punto di tagliarmela per non esserne soggetto. Renunciation is giving something up to see the attachment. Ma per rinuncia si intende, giving something per up rinuncia si intende rinunciare, rinunciare a qualcosa, lasciare andare qualcosa, per essere consapevoli degli effetti dell'attaccamento. And then once we've undermined that non-attachment, then we can go back and enjoy it. E una volta che abbiamo, come dire, distrutto, intaccato questo non attaccamento, allora poi possiamo tornare e godere del piacere sensoriale o di quello che è. I mean, one exercise I usually set people is to sit in front of the television when your favorite program is on. uno degli esercizi che invito le persone a fare è di sedersi davanti alla televisione quando c'è il proprio programma preferito. And make sure you have your coffee and your tea and your biscuit. E assicuratevi di avere il vostro caffè o il vostro tè e lo e il biscotto. So that you're very comfortable and happy. Quindi siete molto comodi, molto felici. And don't turn it on. Non accendete la TV. And just feel the suffering. E sentite questa sofferenza. See? Then if you do that often enough, the suffering will go, you see? E se lo fate abbastanza spesso, allora la sofferenza poi se ne andrà. And then you can watch TV. Dopodiché potete guardare la televisione. Being aware, of course, that the attachment can grow again. Sempre essendo consapevoli che l'attaccamento può tornare. Wisdom, of course, we've talked about. Abbiamo già parlato della saggezza. Energy, we've talked about. In other words, putting the right effort into our lives. L'energia, che l'abbiamo già trattata, cioè mettere il giusto sforzo nella nostra vita. Patience, the Buddha describes as the greatest form of ascetic practice. E poi c'è la pazienza, che il Buddha ritiene essere la più grande forma di pratica ascetica. Which is interesting, eh? Questo è interessante. An ascetic practice. If you want an ascetic practice, develop patience. That's what he's saying. Se volete una pratica ascetica, sviluppate la pazienza. Being able to bear with the unpleasant. Questa capacità di sopportare la spiacevolezza. Unpleasant situations, unpleasant people, even unpleasant states within ourselves, within our bodies. Situazioni spiacevoli, persone spiacevoli, persino stati spiacevoli dentro il nostro corpo. Truthfulness. L'onestà. Resolution. I've said so much about resolution. Poi questo resolution che sarebbe il proposito, l'impegno. Loving kindness, of course, metta. La gentilezza amorevole, metta. And equanimity, this most important of attitudes. L'equanimità, questa attitudine, questo atteggiamento più importante. And I always like to read this little passage, which is not from the Buddha, but comes from the commentaries. Mi piace sempre leggere questo passaggio che non è dalle parole del Buddha, ma dai commentari. As the great being, as a great being is concerned with the welfare of living beings. Così come un grande essere è interessato al benessere degli esseri umani. Not tolerating the suffering of beings. E non sopporta la sofferenza degli esseri non umani, esseri. Wishing long duration to the higher states of happiness of beings. Si augura una lunga durata degli stati di felicità degli esseri. And being impartial and just to all beings. È imparziale e giusto riguardo a tutti gli esseri. Therefore they give alms. Alms. They give alms. E quindi, pertanto, the beings. They give presents. Gli esseri danno dei doni. To all beings so that they may be happy. Quindi questi esseri superiori danno doni agli altri esseri di modo che siano felici. Without investigating whether they are worthy or not. Senza chiedersi se sono degni oppure no. This is a moot point. We can argue this. E questo è un It's a point of contention whether we agree with that. Sì, e questo è un punto controverso. Possiamo crederci oppure no. By avoiding to do them any harm, they observe their morality. Evitando di far loro del male, loro osservano la loro moralità. In order to bring morality to perfection, they train themselves in renunciation. Per portare la loro moralità alla perfezione, si addestrano nella rinuncia. In order to understand clearly what is beneficial and injurious to beings, they purify their wisdom. Per capire cosa sia di beneficio oppure di danno agli esseri, purificano la loro saggezza. For the sake of the welfare and happiness of others, they constantly exert their energy. Per poter, cioè, al fine del benessere, della felicità degli altri esseri, loro continuamente sviluppano la loro energia. Though having become heroes through utmost energy, they are nevertheless full of patience towards the manifold failings of beings. Pur essendo diventati degli eroi, grazie a tutta questa energia che hanno messo, ciò nonostante sono pazienti rispetto ai limiti degli altri esseri, che vedono negli altri esseri. Manifold, molti. Ai molti limiti, difetti che vedono negli esseri. Once they have promised to give or do something, they do not break their promise. Una volta che si sono impegnati, hanno offerto di dare o di fare qualcosa, loro non vengono meno alla loro promessa. With unshakable resolution, they work for the welfare of beings. Con questa incrollabile risoluzione o fermezza, loro lavorano per il benessere degli altri. Si adoperano per il benessere degli altri. With unshakable kindness, they are helpful to all. Con una gentilezza incrollabile, loro sono di aiuto a tutti. And by reason of their equanimity, they do not expect anything in return. E grazie alla loro equanimità non si aspettano nulla in cambio. So there's our standard. Questo è il nostro standard. So now we began this talk by talking about centering ourselves. Quindi abbiamo iniziato questo discorso parlando di come centrarci. About finding a reference point. Come trovare un punto di riferimento. And so this is really what the idea of taking refuges and precepts are about. E quindi è in questo senso che va l'idea del prendere i rifugi e i precetti. Mm. So taking refuge in the Buddha. Quindi questo prendere rifugio nel Buddha. Now there is the historical figure. Quindi c'è questa figura storica. Who is both an exemplar but also an archetype. Che è un esempio ma anche un archetipo. Because his path is our path. Perché il suo sentiero è il nostro sentiero. And in fact, if you look at any of the mystical traditions, you'll find them surprisingly similar. Se uno guarda tutte le tradizioni mistiche, si trova che si assomigliano molto, tutte quante. Very much. Sono molto simili. Yeah. So we say of the Buddha that he is blessed. Quindi del Buddha diciamo che è beato. That he's self enlightened. Che è auto illuminato. That we cannot, that his actions and his words are the same. He, well, how do we say that? His actions, what he says and what he does, are the same thing. Quindi si dice che ciò che fa, ciò che dice, ciò che fa, sono la stessa cosa. That he has arrived at that place of transcendence. Che lui è giunto in quel luogo di trascendenza. He referred to himself as the Tathagata. Lui si riferiva a se stesso come al Tathagata. Mm, which literally means gone there. Letteralmente questo vuol dire andato lì. Mm, which I think is better translated as transcended. Che è tradotto in modo migliore con la parola è trasceso. So he is both above and yet within the world. Quindi è sia al di sopra che dentro il mondo. Mm. And he knows these various worlds that beings live in. E conosce tutti questi mondi nei quali vivono gli esseri. Through his ability to teach, he's a real teacher, a trainer of even gods. Quindi men and attraverso gods. Il suo modo di insegnare, lui è un a trainer of people, of persons. È un, sì, è un maestro, quindi un addestratore, non si dice, un maestro degli esseri, delle persone. And this training refers to all these all the advice that he gives us concerning the spiritual path. E questo addestramento riguarda tutti i consigli che lui ci dà riguardo al sentiero spirituale. Mm. And in a similar way, he's the teacher both of gods and men. E nello stesso modo lui è un maestro sia degli dèi che degli uomini. And he's enlightened, Buddha. E lui è illuminato. Mm. So these are the sort of qualities, and most of them are within us as potential. E queste sono le qualità e la maggior parte di esse sono dentro di noi come potenziale. Mm. Even though we cannot be self-enlightened since we already have help from the Buddha, even so we have to enlighten ourselves. Anche se non possiamo essere auto-illuminati perché siamo aiutati dal Buddha, comunque dobbiamo illuminare noi stessi. Yeah, it's just one of these little paradoxes. Di nuovo uno di questi piccoli paradossi. When we talk about the Dhamma, we say that it is there to be. Its effect is immediate. Sandhiti. Parlando del Dhamma, allora si dice che il suo effetto è immediato. Ah, so in other words, as soon as we sit, we should be able to see the benefit of the practice. In altre parole, appena ci sediamo, dovremmo essere in grado di vedere i benefici della pratica. Yeah, we don't have to wait for results. The result is in the practice. Non dobbiamo necessariamente aspettare i risultati. I risultati sono dentro la pratica. And it's akaliko, it's timeless. It doesn't belong to the realm of time. It's a truth which transcends time. Akaliko significa che è senza tempo, non appartiene alla sfera temporale, ma va oltre il tempo. It's inviting us to practice. E questo è un invito, ci invita a praticare. It's onward going, it's leading us somewhere. È una cosa che va avanti, come se ci portasse da qualche parte. Yeah, and everybody has to run this path by themselves. E tutti devono percorrere questo sentiero da soli. Mm. So that's the qualities that we talk about when we talk about the Dhamma as a law. E quindi queste sono le qualità che dobbiamo sviluppare quando parliamo del Dhamma come legge. Mm. The true law. La vera legge. In fact, the early Buddhists did not call themselves Buddhists, they called themselves Saddharmikas. I primi buddhisti non si chiamavano buddhisti, ma Saddhamika, Saddhamika, which means followers of the true law. E questo significa seguaci della giusta legge, della vera legge. Vera legge. And the qualities of the Sangha are those people who have attained one of the four stages. E le qualità del Sangha sono quelle che possiedono le persone che hanno raggiunto l'illuminazione in una delle dei quattro stadi. Mm. And without going into that in any detail, there are four levels of in the progress towards full enlightenment, towards full liberation. Senza entrare nei dettagli, si può dire comunque che ci sono quattro livelli nella progressione verso la piena liberazione. Mm. And the important thing about these types of people is that they are witnesses through their own experience of the Buddha's own knowledge. Ma la cosa importante è che queste persone sono come dei testimoni attraverso la loro stessa esperienza delle conoscenze che ha acquisito Buddha. Mm. So that's that's what we're taking refuge in. Quindi queste sono le cose nelle quali prendiamo rifugio. Mm. And then the training begins by undertaking what we ought not to do. E poi l'addestramento comincia con impegnarsi a non fare ciò che non dovremmo fare. And of course, in not doing what we ought not to do, we must be doing what we ought to be doing. Quindi ovviamente non facendo quello che non dovremmo fare, facciamo quello che dovremmo fare. It's a consequence, it's a natural consequence. Una conseguenza naturale. So, if those of you who've been practicing a long time, if you see that maybe this is an opportunity to actually commit yourselves. Quindi per coloro che stanno praticando già da un po' di tempo, se Vedete questo come un'opportunità per prendere un impegno. Mm. You may of course have done this before. Potrebbe darsi che l'abbiate già fatto. In which case this would be a reinforcement. In questo caso questo sarebbe un rinforzo. Then on the Sunday morning before breakfast we can have a special ceremony in which you actually take on this practice. Allora, prima di colazione, domenica mattina faremo una piccola cerimonia dove chi lo desidera può assumersi, come dire, questa tradizione, questa pratica. Mm, yeah. Now, impegnarsi in questa pratica. Often when this is put to people, they immediately go into shock. Di solito quando questo viene proposto alle persone, loro immediatamente diventano scioccati. Because they have memories of past religious commitment. Perché loro hanno dei ricordi di vecchi impegni religiosi, diciamo. And often people have liberated themselves from that. And definitely don't want to go back into the same situation. Se ne sono liberate e certamente non vogliono tornare in quella situazione. So what I suggest to people is that they, if you're interested, is to take these commitments for 1 year. Allora, quello che io suggerisco alle persone, se sono interessate, è di prendersi questi impegni per un anno. And see how it feels. E vedere come ci si sente. You know, see if it actually makes a difference to your practice. Vedere se effettivamente fanno una differenza nella vostra pratica. And of course, for it to make a difference, every morning you have to repeat these refuge and precepts to remind yourself. Ovviamente perché facciano una differenza, rappresentino una differenza, uno deve recitare questi rifugi e precetti tutte le mattine. Ah. Per ricordarselo. Yes. So now, if you're interested to do this. Then you can also choose a virtue that you feel you want to develop. Se vi interessa farlo, allora potreste anche scegliere una virtù che vogliate sviluppare. And if you choose the opposite of your main weakness, that will become your main strength. Se voi scegliete l'opposto della vostra principale debolezza, quella diventerà la vostra principale forza, punto di forza. Yeah, very interesting, eh? Interessante. Yeah. So, and I, what I would do is to find the Pali word, so that becomes your Dhamma name. Io cercherò la parola in Pali e quello diventerà il vostro nome di Dhamma. Ah. So now, if that interests you, then by tomorrow evening you have to tell me. And you have to tell me what your virtue is. Quindi se vi interessa fare questa cosa. Want to be. No, if you want to take these refuges and precepts on Sunday morning, then you have to tell me by tomorrow evening. Sì. One second. Entro domani sera, quindi dovete dirgli, se siete interessati, anche qual è la virtù che volete sviluppare. You want to get. So that I can get the Pali name. Così lui può andare a cercarsi il nome di Pali. Yeah. I don't really understand the teaching on alcohol. Is it no alcohol or dependency on alcohol? Or this is well, you know, we are for us, alcohol in our society is not seen in the same way as Eastern societies. La domanda era sull'alcol, cioè vuol dire non assumerne oppure non diventare dipendente. Now, e Vanti dice che nella nostra società l'alcol è visto in maniera diversa che non in Oriente. If we take the Buddha's teaching to mean that we're always supposed to be developing this clarity of awareness. Se prendiamo gli insegnamenti del Buddha, cioè che noi dobbiamo sempre cercare di sviluppare questa chiarezza nella consapevolezza. Then of course the last thing we want to do is put something in the body which is going to cloud that awareness. Quindi l'ultima cosa che vogliamo fare è mettere qualcosa nel corpo che offuscherebbe quella chiarezza. So this is our ultimate aim. Ultimate aim. E quindi questo è il nostro obiettivo finale, diciamo. But remember, these are not absolute commandments. Ma ricordatevi che questi non sono comandamenti assoluti. They are training rules. Sono addestramenti. So it's for every individual to decide how much they're going to confuse their awareness. All'individuo decide quanto possono confondere la loro consapevolezza. And how long they're going to take to reach this place where they're not going to do that anymore. E quanto ci mettono ad arrivare a quel punto dove non lo faranno più. So it's a case of being at ease with these rules. And they, you know, they're not rules, training rules. Di essere a proprio agio con questi addestramenti, con queste regole. Now the Chinese have, I think, a very wise way of taking these precepts. I cinesi hanno un modo molto saggio di assumere questi precetti. They don't take the one they know they don't intend to keep. Quindi non prendono il precetto che sanno che non riusciranno a mantenere. Now, you can do that. Sometimes when people get refugees with me, they don't take the fifth. E questo lo puoi fare. A volte quando le persone prendono i precetti con me, non prendono il quinto. But I think we can also be a little forgiving to our society. Però penso che possiamo anche essere un po' perdonanti, non si dice? Yeah. Un po' più comprensivi verso la società. And shall we say, have a certain sympathy for Saint Paul. E avere una certa comprensione, una simpatia, ma non simpatia in italiano, dice un'empatia verso San Paolo. Who distinctly says that a little wine is good for the digestion. Che dice che un po' di vino, semplicemente che un po' di vino fa bene alla digestione. So these decisions, you see, are completely left to you. Queste decisioni sono completamente a vostra discrezione. Ah, sì. Take for instance the first one, not to harm any living beings. Actually, the one is not to kill any living beings. Prendete il primo, che è quello di non uccidere alcun essere vivente. Now, at what point will you break? Will you see that precept cannot be kept? Quindi a quale punto, in quale punto riconoscete che quel precetto può non essere più mantenuto? An infestation of rats in your house? Se c'è un'infestazione di ratti nella casa, di topi. Antibiotics to kill off a disease? Gli antibiotici per curare una malattia. You see, when I was in Burma, the monastery was constantly fumigated against mosquitoes. Quando ero in Birmania, il monastero veniva continuamente, come si dice in italiano? Fumigato. Per liberarsi delle zanzare. Ah. So we do not live in an absolute universe. Quindi noi non viviamo in un universo assoluto. No, we live in a relative universe. Ma in un universo relativo. And therefore morality is always circumstantial and contextual. Quindi la moralità è sempre circostanziata e contestuale. Ah, sì. So we will always hit these problems which are neither black. It's very rare to come across something that is black or white. È molto difficile dover affrontare qualcosa che è chiaramente o bianco o nero. There's always some little shade of grey. C'è sempre un po' una sfumatura di grigio. Ah. So what should our attitude be? Quindi quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento? I think we should do our best. Io credo che dovremmo fare del nostro meglio. Yeah. And if it's not good enough, we have to accept the consequences. E se non è abbastanza buono, dobbiamo accettare le conseguenze. Very simple. Ah. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. And that you may find within your lives a spiritual grounding. E che voi possiate trovare nelle nostre vostre vite un radicamento spirituale. Whichever tradition it might be. Qualunque tradizione sia. And from there, work speedily towards your liberation. E da lì che voi possiate andare velocemente verso la vostra liberazione. Which, if done properly, will definitely arrive sooner rather than later. Che se fatto in maniera giusta, sicuramente arriverà prima piuttosto che poi. Very good. So, I think what time is... Ooh.